Voci di piccola impresa, idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Le nuove TV e radio sono monotematiche, interagiscono con chi le guarda e rispondono sempre di più alle esigenze di un pubblico esigente. Sono capaci di portare avanti una battaglia, quella dell'arte o quella del bello o quella della produttività delle aziende, del tessuto imprenditoriale italiano, dei distretti, facendo business. Interattivo e monopassione, canale arte e il canale piemontese interamente dedicato al mondo dell'arte, da oggi disponibili in diretta streaming anche sul web. Palinsesto propone una programmazione monotematica che tratta l'arte sotto tutti i punti di vista, trasmettendo dalle aste ai documentari fino ai reportage e rubriche informative. Canale Arte è ormai un punto di riferimento per tutti i professionisti del settore, per tutti gli appassionati che vogliono essere informati sugli eventi culturali del nostro paese. Seguite in modo particolare sono le aste in diretta, che offrono allettanti occasioni soprattutto per collezionisti e non escludono nessuna categoria. È presente anche la numismatica. Canale Arte, insomma, è sempre aperto ad accogliere nuove proposte da parte dei telespettatori e professionisti del settore, che sono invitati a collaborare. Per chi lo desidera, si trova su canale 697 in Piemonte, 665 in Liguria e la web TV in streaming su www.canalearte.tv. La nostra guida al video e all'ascolto, la fondatrice Vanessa Carrioggia. L'idea di Canale Arte è venuta a me e a mio fratello circa 2 anni e mezzo fa. La nostra idea è stata di creare una nuova realtà televisiva multimediale, perché noi andiamo in onda sia sul digitale terrestre che sul web in streaming, proprio dedicata alla valorizzazione dell'arte italiana attraverso trasmissioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Certamente è un'idea molto impegnativa, nel senso che l'idea è bellissima, ma la realizzazione è davvero difficile, nel senso che un palinsesto, una televisione hanno bisogno di investimenti, di gente, di lavoratori, di idee. Ecco, voi come avete fatto a realizzarla? Noi l'abbiamo realizzata innanzitutto credendoci, ci siamo aiutati da soli, abbiamo investito su questo progetto, innanzitutto mettendo a disposizione il nostro lavoro, il nostro tempo e i nostri pensieri. Abbiamo un gruppo di persone molto motivate che credono nel progetto. I capitali arrivano da noi. Fino ad ora abbiamo investito circa 500.000 di euro in apparati, perché una televisione per andare in onda ovviamente ha bisogno di tutto un acquisto di telecamere, di apparati audio-video e di tutta una parte tecnica. La competenza dell'arte sicuramente ci proviene dalla nostra storia familiare. Nostro padre ha una casa d'aste da più di 40 anni, poi ci avvaliamo per quanto riguarda il palinsesto televisivo, quindi il canale televisivo, la testata giornalistica di un direttore. Siamo partiti da un nucleo piccolo e piano piano siamo circa una decina di persone in redazione, e poi a seconda dei progetti che andiamo ad affrontare ci avvaliamo di collaboratori. Come scegliete gli eventi da seguire? La scelta è determinata dall'interesse che potrebbero avere i nostri utenti, che sappiamo sono già un pubblico molto tagliato, collezionisti, ma anche semplicemente persone che amano l'arte. Il vostro modello di business qual è? Da che cosa guadagnate? Quanti utenti avete? Riuscite già a contarli? E soprattutto come vi tenete in piedi? Il capitale iniziale era ingente e adesso vediamo appunto il futuro com'è. Sicuramente scommettere sull'arte e sulla cultura in Italia dovrebbe essere più semplice, perché è il nostro patrimonio più grande. Noi adesso siamo partiti con una nostra idea, quindi con il nostro capitale. Abbiamo degli inserzionisti che fanno delle inserzioni, quindi della pubblicità sul nostro canale televisivo. Sono più che altro investitori che vogliono fare co-branding, cioè unire il loro marchio all'idea del matrimonio tra la cultura e l'eccellenza italiana. Qualche numero come fatturato? Adesso circa ci aggiriamo sui 150.000 euro l'anno. Ovviamente la parte più consistente dei nostri costi è dovuta alla messa in onda, perché andiamo in onda anche sul digitale terrestre, e poi dopo soprattutto sulle produzioni. La nostra idea è sicuramente quella di fare rete, perché se ci aiutiamo gli uni con gli altri con delle idee buone e innovative, sicuramente riusciamo a farci conoscere da più persone. Stiamo cercando persone con cui fare rete, quindi associazioni culturali, le istituzioni pubbliche e private italiane, che sono quelle che di fatto valorizzano, che ancora credono si potrebbero fare 1 milione, 1 miliardo di progetti utilizzando le risorse scientifiche interne a questi musei, a queste istituzioni pubbliche, ed utilizzando un media che sicuramente è quello di un canale televisivo e anche di un canale web. Sarebbe semplicemente un modo per crescere tutti quanti insieme, ma proponendo qualcosa di stupendo e di bellissimo. OK Network, www.oknetwork.it, con un approccio consulenziale, lavora costantemente al fianco delle aziende per supportarle nelle attività digitali, come i siti internet, l'e-commerce, le campagne marketing, la moderazione dei social network e attività media, eventi, video e streaming. È il punto di riferimento qui per la formazione locale, organizzando corsi professionali con diverse tematiche, ma non solo, si occupa anche di un distretto come l'Alto Milanese, il tutto sempre via video e via radio, come racconta il suo fondatore Mario Moroni. L'idea di OK Network è arrivata quando, dopo aver lavorato più o meno una decina d'anni in agenzia digital e avendo una grande passione per la radio e per l'intrattenimento, ho pensato che queste due cose potessero avere una formula che non fosse soltanto quella della web radio, quella del web TV, ma che potesse diventare una fonte di business. Abbiamo pian piano realizzato, facendo degli esperimenti anche di qualità, che questa cosa potesse funzionare. Fondamentalmente è una digital media agency, OK Network, che ha all'interno un suo hub che si chiama OK Radio, su cui si fa intrattenimento dal vivo con telecamere in full HD, con una regia video, con tutta una serie di punti che possono anche far arrivare i nostri investitori o i nostri sponsor al loro target ben definito e non un target generalista. Che cosa vi ha aiutato oltre la tecnologia per mettere in piedi questa TV e che cosa si vede nella vostra TV? Allora, in realtà sì, è vero sicuramente che c'è, la tecnologia aiuta e che è sicuramente sempre più smart, però tra fare, diciamo, la web TV o la web radio con uno smartphone e farla con una serie di strumenti tecnologici molto avanzati, diciamo, la qualità è un po' la differenza. L'altra cosa sicuramente è quello di saper comunicare con le persone, di saper fare intrattenimento e non di improvvisarsi videoblogger. Il nostro punto fondamentale è quello della diretta, cioè, nel senso, noi andiamo in diretta dal lunedì al sabato tutti i pomeriggi per il momento, per cui questa è una delle differenze. Si dice sempre che ci sono quelle quattro persone, quei quattro incontri fondamentali nella vita di una startup. In realtà noi abbiamo avuto degli incontri interessanti con altri startupper che ci hanno suggerito quali passaggi fare. In realtà non abbiamo un finanziatore o non abbiamo un centro che ci segue e che ci spinge. Il progetto è tutto autofinanziato da noi, vive sui nostri clienti, sulle nostre sponsorizzazioni. Siamo un team di 6 persone pagate esclusivamente con il nostro lavoro. Da cosa guadagnate, da quale attività guadagnate e soprattutto quanti sono quelli che vi seguono? Quante persone ci seguono? Al momento sono 200.000 persone che ogni mese ci guardano e ci seguono. Il nostro obiettivo è quello di arrivare al primo milione di utenti unici al termine del 2014, inizio 2015, e fondamentalmente il nostro modello di business è un misto tra l'advertising, quindi il modello pubblicitario del passo lo spot o metto il prodotto in onda, a chiaramente quello legato ai servizi digital, perché chiaramente chi capisce che riusciamo a stare in piedi grazie a queste tecnologie, poi ci chiede magari anche una consulenza social o una consulenza marketing digitale. Ecco, cifre, facciamo degli esempi, livelli, dei range. Si parte dal pacchetto più basso, che è quello che si appresta intorno a qualche centinaio di euro, 300 euro mensili, e si arriva poi a un prodotto che magari è un po' più sofisticato con gli eventi, quindi con i track gonfiabili fuori chiaramente dai nostri studi, ma in giro per l'Italia, che può prestarsi su qualche migliaio di euro. Il mercato che l'avete studiato qual è? Il mercato che abbiamo studiato è quello, chiaramente quello locale, quindi quello europeo. Abbiamo sbirciato quello americano perché c'è chi tra di noi ha avuto un passato in Silicon, e però è proprio completamente diverso. Non abbiamo per il momento trovato, diciamo, dei competitor di riferimento, almeno nel nostro territorio. Conto che arrivino, perché nel senso che il mercato di intrattenimento si sta spostando tutto da questa parte, chiaramente il cliente, l'investitore, l'inserzionista non deve essere attratto dallo spot, ma deve essere attratto da quanti prodotti vende attraverso questo strumento. Il mix tra, diciamo, la dinamicità digitale e tra quello che invece sono i casi positivi anche delle aziende, ma anche non soltanto le aziende, anche degli artisti, è quello che piace di più le persone. Quindi think positive, è importante essere positive, voi aiutate, diciamo, questo mood è molto importante, e soprattutto cercate anche di tenerlo in piedi per voi, perché è una bella scommessa la startup. Assolutamente sì, io insomma mi ci sono buttato lasciando come altri il mio staff un tempo indeterminato con tante agevolazioni in una fase diciamo di contratto intermedio, per cui fare startup in Italia è anche un po' scommettere sul paese oltre che sulla propria idea che può funzionare o meno, ma che fondamentalmente passa. Scommettere sul fatto che esistano ancora imprenditori che abbiano voglia di scommettere a loro volta e chiaramente anche sul territorio. Insomma, queste tre componenti sono quello che ci deve far andare avanti. E ora visualizzate il vostro futuro. Se volete ascoltare le precedenti storie o scriverci le vostre voci di piccola impresa su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog su www.radio24.it dove trovate anche il download. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza, un saluto da Anna Marino.